È una prima battuta di arresto del partito Giustizia e Sviluppo, che il partito di Erdogan non è un risultato non previsto, perché già i sondaggi alla vigilia del voto dicevano che AKP avrebbe potuto perdere Ankara e Istanbul, però è molto significativo perché Erdogan si era impegnato in questo voto, aveva fatto campagna elettorale, aveva detto che era un voto per la sopravvivenza del suo partito, quindi evidentemente perdere Ankara e perdere le città principali, non solo secondo i primi risultati, AKP ha perso anche tutte le città costiere, quindi Antalya ed altre. È evidente che il partito AKP sta ridimensionando la sua presenza, la sua controllo capillare territoriale che ha sempre avuto, perché ricordiamo che Erdogan ha iniziato la sua carriera politica come sindaco di Istanbul, cioè della città che in questo momento è in bilico. Secondo gli ultimi dati che leggevo, il candidato delle opposizioni, cioè il candidato del Partito Repubblicano, sarebbe avanti di poche migliaia di voti, 28.000 voti, però certo perdere queste città è molto significativo. Ricordiamo però che a livello nazionale comunque AKP sembra mantenere la sua percentuale del 50%, è comunque una percentuale inferiore rispetto al 52% che aveva ottenuto alle elezioni del 2018. Ricordiamo che Erdogan ha rafforzato i suoi poteri dopo il referendum costituzionale del 2017, quindi questo non comporterà nessun cambiamento nel breve periodo, perché fino al 2023 lui continuerà ad essere un presidente della Repubblica con enormi poteri grazie al referendum costituzionale. Evidentemente però da un punto di vista politico questa sconfitta è significativa, non solo da un punto di vista politico ma anche da un punto di vista economico, perché la Turchia sta attraversando una crisi economica molto seria, c'è cioè un'inflazione galoppante, alti tassi di disoccupazione, la lira turca che perde potere d'acquisto, una fase di recessione che va avanti dal 2018, quindi è evidente che il popolo turco inizia a chiedere un cambiamento, che possa essere un cambiamento di riforme economiche, ma anche politiche, e sappiamo invece l'impostazione che viene da Erdogan, che è quella appunto dell'islamismo politico, del nazionalismo basato con radici islamiche. Pensiamo per esempio a questo progetto di ristrutturazione del centro di Istanbul, di Santa Sofia, di ritornare alla moschea, eccetera, che è una delle chiavi di lettura per capire la sua presidenza, i suoi anni al potere, che ormai sono decenni, e quindi è evidente che la sua speranza, la speranza politica di continuare ad essere presidente turco, è tutta legata alla sua capacità di superare questa fase di crisi economica.